se non ritorna più, io perderò, lui perderà nel gioco dell'amore. No, non c'è pietà. Signore, pensaci tu, non so vivere più senza lui. L'amore è un gioco, però più giocare non so senza lui. Perderò, che succederà nel mio cuore? Tutto quello che ho l'ho puntato su lui. Ah, una ragazza non può fare più di così, no, non può. Signore, pensaci tu, che sai tutto di me. Lasciarlo mai, vive senza me. Ho paura che da solo con me faccio un passo sbagliato. Aiutalo tu. Anche se negli occhi c'è sereno, so che c'è tempesta. Se non